te di nuovo per me, te di nuovo per me, forse neanche un caffè, forse neanche un caffè, pure una tazza di tè, e neppure una tazza di tè. Questa vita che va forte verso il futuro, che non promette le Alpi, le piramidi e le meraviglie sette. Quando sono lieti col mondo, faccio un gran giro tondo, non riesco mai a capire dove vorresti andare, ma se tu vieni con me, niente di nuovo per me, niente di nuovo per me, sotto una pianta di tè, nell'orizzonte che c'è, sotto quel cielo stellato del mondo che si è svegliato, ma non si accorge di te. La Nuova Zelanda è lontana, l'Australia non è vicina, vorrei una verde collina e rotolarmi giù più giù, come nelle Grand Sandius, proprio fino in fondo, a questo porco mondo che va e che viene, che ci tiene incatenati al tempo, che fugge ora veloce, ora lento, ma sempre in fermento, come una nave senza vento. Per me, te di nuovo per me, forse è soltanto un moplan, forse è soltanto un moplan, quello di plastica blu che ti fa sentire il blu, come a Seattle Grand, la Copacabana Ru bianco, come il Bacardi o giallo, come la Havana Club, dentro la Coca-Cola che bevo in discoteca, mentre smantello il cellulare con la motosega, mentre ballo come un pazzo sulla pista più trend, vedo te che di fianco a me fai sul palo, la lap dance dentro il tuo corpetto di paillette con uno struzzo, che si appresta alla battaglia col leone dentro il palco Zavo Est. Anytime I see you Bella, you can feel me like a stellar shining in the movie sky with the clouds around my face. Anytime I see your body snaking flex around the strobing, I feel good. Niente di nuovo per me, niente di nuovo per me, se neanche un caffè, forse neanche un caffè, neppure una tazza di tè, e neppure una tazza di tè. In questa terra degli struzzi, dove tutti si accodano a tutti e soprattutto a chi comanda, e sembrano l'uomo gatto di Sarabanda, ma sono solo dei pupazzetti stretti nella loro tutina da lavoro per leccare il culo ai capi del momento, quando tira il vento ma non arriva ancora la tempesta fresca che alla fine lava via dal mondo questi incapaci che hanno distrutto il nostro bel paese dalla fondamenta alla cima. Infatti la gente non arriva a fine mese, si sta meglio nel terzo mondo che a Milano, perché ci sono ladri e assassini ovunque, ma nessuno fa niente. Per favore, almeno tu dammi una mano, senti nel metro, ne sci senza mutande, se vai in vacanza lontano ti trovi la casa occupata al ritorno, se lasci qualcosa in macchina la trovi spaccata, se dici qualcosa a qualcuno ti arriva una sprangata, ma poi magari ti fanno la multa perché sei senza catene, anche se da noi non nevica più dal pleistocene, sono solo sporchi trucchi per fregarti la grana, altrimenti chi la paga la escort di tour per la serata in omaggio agli amici o alla cena di gala. Per me, te di nuovo per me, forse neanche un caffè, forse neanche un caffè, e neppure una tazza di tè, e neppure una tazza di tè. Rimane solo questa vita che è diventata brutta come la figlia di Fantozzi, infatti prima ti divertivi come un matto, adesso invece è tutta piena di merda e di muffa, sei sempre sotto sfratto, fai fatica a tirare avanti, devi stare attento a tutti gli sguardi, devi sperare di riuscire a emigrare in Norvegia, dove tutto funziona, meraviglia ancora meglio, più lontano tipo Nuova Zelanda, dove al massimo cade una piccola frana, altro che allagamenti di massa tipo Genova, tiri tiri su una verde collina, ti trovi una bella compagna carina che sembra una pinata copertina da calendario Pirelli, poi ti ritiri ad allevare pecore merino, se di tanto in tanto magari pensi all'Italia disfatta dai ladri e dai rapinatori, e ti commuovi un pochino, Bella, you can feel me like the stellar shining in the moonlit sky with the light around your face. Every time I see your body making flexors through the strobing, I feel good. Every time I see you, Bella, you can feel me like the stellar shining in the moonlit sky with the cloud around my face. Time I see your body snaking flexors around the strobing, I feel good, I feel good, I feel good.